in diretta su CRM Happy Radio Deja Vu con Mary Catalano. Deja Vu su CRM Happy Radio. E buongiorno, comincia un nuovo appuntamento con Deja Vu, come dice la bella nostra vociona tutta maschile. Ancora ben trovati, siete su CRM Happy Radio e questo appunto è l'appuntamento con Mary Catalana e con Deja Vu, l'appuntamento del martedì e del giovedì su CRM dalle 10 circa fino a mezzogiorno. Tanta buona musica naturalmente vi aspetta, qualche curiosità, qualche bella notizia, sicuramente ve la do. E una di queste è il fatto che per le festività pasquali ci aspetta un buon tempo, un bel tempo insomma qui in Sicilia. Sole, temperature alte fino a lunedì, quindi anche Pasquetta salva. Questa è già una gran cosa, una gran bella notizia, no? Come oggi che c'è questo sole, sì, qualche nuvoletta qua e là, ma ci sta anche. E comunque come si evince, come si sente nell'aria, c'è questa voglia di vivere migliore quando c'è il sole, no? Forse, o forse al contrario, quando arriva la primavera ci si sente un po' più fiaccoletti, ci si sente un po' più assonnati, Non lo so, dipende un po' dai punti di vista, dalle situazioni di ognuno. Comunque sia, noi siamo qua sempre per allietare le vostre giornate, dovunque voi siate, al lavoro, a casa, a spasso, in macchina, su internet, dovunque veramente. Ci seguite al nostro sito internet, anche se volete in streaming al www.crmpiradio.it, nonché alla nostra pagina Facebook. Se non siete fan, vi ricordo che potete benissimo andare sulla pagina di CRM, appunto cercare su Facebook CRMpiradio, cliccare su mi piace e il gioco è fatto. Ci seguite veramente ovunque, quando volete, se volete, insomma, come vi pare, ok? I numerini a vostra disposizione sono il 335-56-37251 per gli sms e poi lo 0921-92-32-92 è il numero fisso. Ebbene, iniziamo, anzi continuiamo con Daido, il nuovo singolo per lei che sentiamo già da qualche settimana, eh? Si chiama No Freedom, ancora ben trovati. Take it by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and be safe, hands could go. Take your heart above the water, wherever I choose to go. No love without freedom. No love without freedom. No love without freedom. No freedom. C'è libertà se non c'è amore, questo è il singolo di Daido che è tornata ad esibirsi dal vivo dopo 5 anni di assenza dai palchi di tutto il mondo, e in questa occasione di esibizioni dal vivo diciamo che si è data da fare a dare il meglio di sé e ha sfornato il suo nuovo album che si chiama Girl Who Got Away, e naturalmente il singolo portante, il singolo di lancio è quello che abbiamo sentito fino a poc'anzi, ovvero No Freedom. E intanto continuiamo con il nostro appuntamento, è appena cominciato, già da poco siamo insieme, sempre Déjà Vu, sempre Mary Catalano con voi, e la musica farla da padrona, e questa volta la musica italiana di Emma. La notte porta via il dolore e accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina, qui e lasciami fare. Spengo ad una anche le stelle. Al buio sottovoce si dicono le cose più profonde di io. Mi sento bella come non mai. Come questo sole che ci illumina. Di un faro nel mare, amami, senza un domani, senza farci del male, ma adesso amami, dopo di noi c'è solo il vento e porta via l'amore, cancello coi tuoi occhi le mie fragilità, rivivo nei tuoi sensi le voglie e la paura. L'istinto di chi poi non se lo immagina, la bellezza di chi ride e volta pagina, e conservo ad una anche le stelle, le tengo fra le mani, le conto sulla pelle, e bocca contro bocca, e sono l'unica sotto questo cielo che ci illumina. Nuovo singolo di Emma spacca i timpani nel senso buono della parola. L'amore non mi basta è praticamente la traccia di Emma, disponibile in anteprima per chi prenota il disco, che si chiama Schiena. Emma è seconda tra i dischi più acquistati su iTunes, mentre il singolo di lancio che abbiamo appena ascoltato, ovvero Amami, si mantiene saldamente in top 10 al settimo posto. Il nuovo album della cantante salentina, che uscirà solo il 9 aprile ma può già essere prenotato online, è ancora secondo nella classifica degli album più scaricati, seguita poi da Delta Machine dei Depeche Mode, è preceduta invece dalla trilogia, ovvero il doppio CD live dei Litfiba, uscito proprio qualche giorno fa, anzi uscito proprio 2 giorni fa esattamente. E poi c'è Pronto a correre di Marco Mengoni, che è quarto, seguito da Random Access Memories dei Daft Punk, e poi tanti altri, insomma. Intanto Emma si difende veramente molto bene. Andiamo avanti con un'altra cosa che in questo periodo balliamo tantissimo e che mi piace molto sentire in macchina. I think Déjà Vu su CRM Happy Radio. Public con un nuovo singolo I Lose Myself qui su CRM Piredi all'interno di Déjà Vu, e parliamo di auto elettriche. Il Veneto sperimenterà la ricarica nelle stazioni di servizio finalmente. Accordo raggiunto e firma tra Eni ed Enel. Uno stop nelle aree di servizio, ma per un pieno di elettricità, e partirà dal Veneto, come dicevamo, in tandem con l'Emilia, il piano di Eni e Enel per installare le colonnine di ricarica per le auto elettriche. L'accordo tra i due colossi dell'energia è stato firmato a Roma dai due amministratori delegati, Paolo Scaroni e Fulvio Conti. Un accordo tecnologico e commerciale tra le due realtà che scommette sullo sviluppo delle mobilità elettriche e prevede in sostanza di portare le colonnine studiate dall'Enel nelle stazioni di servizio più grandi di Eni. L'obiettivo è di estendere la rete dei punti pubblici di ricarica anche fuori dalla città, facendo delle auto elettriche un veicolo vero e non solo da centro urbano, anticipando gli sviluppi del mercato. L'esperimento, hanno detto Scaroni e Conti, partirà il prossimo anno da Veneto ed Emilia, dopo 6 mesi dedicati a studiare la migliore soluzione, la soluzione operativa, e a definire la sperimentazione tra le due regioni. E iniziamo una fase di studio e di analisi in una decina di stazioni per poi avviare una crescita progressiva con l'obiettivo finale di dotare tutte le stazioni di colonnine di ricarica. E questo lo hanno spiegato Scaroni, appunto, che ha detto di voler puntare sulle stazioni più grandi dotate degli spazi necessari per installare punti di ricarica elettrica al fianco di quelli con i combustibili tradizionali. La scelta delle due regioni avviene da parte di Eni Enel, guardando alle potenzialità delle aree, dove tra l'altro Enel ha già avviato accordi per l'installazione di colonnine pubbliche, ad esempio in Emilia, con la regione e le utility IRA e IREN, dove i clienti di Enel possono andare a ricaricare l'auto. In Veneto la società elettrica ha già installato 4 colonnine pubbliche, appunto, di ricarica elettrica in 2 punti, alla rampa San Basilio e al porto di Venezia e a Mestre, via Gabriel Bella. Ora le due società accelerano, la sperimentazione avverrà attraverso l'installazione nei distributori Eni, scelti appunto, delle colonnine a ricarica veloce in corrente continua ed alternata, capaci di garantire in 20-30 minuti un rifornimento di energia in tempi compatibili con una sosta per un caffè o uno spuntino nelle stazioni di servizio. Davvero davvero interessantissimo questo fatto qua, e la tecnologia avanza sempre di più, come la musica. Questo CRM con questo splendido singolo The Cranberries, Dreams.

Francesco De Gregori, mi piace con questo nuovo singolo Guarda che non sono io, qui a CRM Radio all'interno di Déjà Vu. E mancano ormai pochissimi giorni alle festività pasquali e l'ago della bilancia inizia già a tremare pericolosamente. Tra uova di cioccolato, colombe, piatti prelibati, infatti il rischio di ingrassare diventa pericolosamente reale. Le abbuffate, inoltre meno abbondanti di quelle natalizie, ma comunque presenti anche in questo periodo dell'anno, concentrate nel periodo che va da domani fino a Pasquetta, possono portarci problemi più gravi di un lieve aumento di peso. Acne e cellulite sono in agguato, quindi non esageriamo con la cioccolata. Sappiamo che ha tante... in questo caso tante cose a suo favore la cioccolata, adesso non mi viene il termine esatto, aiutatemi, magari mi mandate un messaggio così nel giro di 3 secondi, comunque sì, avete capito quello che voglio dire, la cioccolata ha tanti pregi, ecco, però ci sono anche i difetti, che possono essere quelli da un uso spropositato della cioccolata, di avere più acne in questo periodo e più cellulite, quindi state attenti a quello che mangiate, a quanto ne mangiate soprattutto. L'allarme non arriva da me, sicuramente arriva da dermatologi italiani preoccupati degli effetti della buffata sulla nostra pelle. L'eccesso di calorie infatti non causa problemi soltanto alla nostra bilancia, ma anche alla nostra epidermide, portandoci a dover affrontare i fastidiosi effetti collaterali del cioccolato di troppo. Quindi state attenti comunque a non esagerare eccessivamente. Esagerate sì, ma con parsimonia. E come si fa? Un po' un paradosso, però ci proveremo, dai. Intanto noi possiamo continuare benissimo ad esagerare con la musica, che quella non fa mai male, mai, mai, mai, proprio mai, non ha effetti collaterali la musica. E andiamo a sentire Usher con Go Missing, il nuovo singolo per lui. Yeah. It's so crowded up in here, what you doing all alone? And it's so dark in here, plus you ain't even got your phone. What kind of man would ever want to leave your side? Shame on him, you coming home with me tonight. Oh, go missing. Baby, ain't nobody gotta know. Go missing. Conscience telling you you shouldn't go. Don't listen. I'ma take care of the show. Turn around, you can follow me right out that back door. Go missing. Go missing, baby. We can keep it on the low. Go missing, you. Go missing, missing. Reckless abandon. Go ahead and party, girls. They probably got somebody taking care of them. Girl, to each his own. I promise, if you come with me, I'll make sure you get home in the morning. Make up your mind, girl, what's it gonna be? Keep in mind we gotta leave before they turn the light on. I'm gonna grab my keys, don't you overthink. Just be a thing with you, I bet they already been lost. Go missing. Baby, ain't nobody gotta know. Go missing. Conscience telling you you shouldn't go. Don't listen. I'ma take care of the show. Tell me wrong, you can follow me right up that back door. Go missing. Go missing, go missing, baby, we can keep it on the low. Go missing, yeah, go missing, listen. Come with me, shawty, forget about him. Call me Big Daddy to the morning. Do yourself a favor tonight, 'cause a chance like this only happens once in a lifetime. Come with me, shawty. Favor tonight. Oh, girl, let's go missing. Go missing. Hey, nobody gotta know. Go missing. Conscience telling you you shouldn't go. Don't listen. I'ma take care of you. Show time to roll. You can follow me right out that back door. Go missing. Go missing. Go missing. Déjà Vu su CRM Happy Radio. Un'ora in musica è già trascorsa, siete sempre all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano qui su CRM Happy Radio. Sono quasi le 11 e abbiamo sentito un sacco di bella musica fino ad ora. Io sono convinta che è così, sono convinta che sia di vostro gradimento, e se volete potete aggiungere ancora più zucchero a questo appuntamento e farmi sentire la vostra presenza interagendo naturalmente tramite SMS al 3355637251. Saremo insieme sino a mezzogiorno, per cui c'è tempo per comunque interagire in qualche maniera, anche tramite Facebook se volete, o il nostro indirizzo internet, il www.crmepiradio.it, dove ci seguite in streaming, come sapete. Se volete ci sono anche i programmi in podcast, le repliche di tutti i vari appuntamenti di CRM, se vi interessa, magari le ascolterete in un altro momento. Per adesso mimetizzatevi e concentratevi soprattutto in quello che è l'appuntamento di questo momento con Deja Vu. E per quanto riguarda Pasqua, che ormai è alle porte, ci attende davvero un tempo positivo a quanto pare. Se vogliamo parlare un po' del fatto che del tempo che ci aspetta appunto per le feste pasquali, soprattutto per il giorno di Pasquetta, beh, c'è da dire che ci sono buone notizie a riguardo. Lo dicevamo anche

d'amore. Chiamami e ti vestirò come una stella di Cesare Cremonini, per girare il video del suo ultimo singolo, La nuova stella di Broadway, che stiamo ancora ascoltando in sottofondo. È andato fino a Bangkok e ha realizzato questo videoclip davvero d'effetto, che piacerà sicuramente, che già potete vedere su internet se volete. La teoria dei colori è l'ultimo progetto discografico di Cesare Cremonini, che sta andando molto bene, ma soprattutto sta riscuotendo un ampio successo con il terzo singolo estratto, appunto la canzone che abbiamo sentito, del quale si può vedere, come dicevamo, il video. E la storia racconta nella canzone, raccontata da Cesare, è ispirata a Chicago, il film musical con Richard Gere. Cesare si è immaginato una coppia tipica di personaggi della Grande Mela, vale a dire un uomo d'affari un po' sgangherato che va in cerca di illusioni e una ballerina professionista che ha una grande ambizione, quella di sfondare a Broadway. Con l'aiuto del regista Fabrizio Cestari ha messo davanti alla macchina da presa Kata, si chiama Kata Shamadol, per vestire panni del businessman, e Nick Evelyn per interpretare insomma la ballerina del video. Insomma, un video da vedere, molto carino, direttamente da Bangkok. Cesare si è fatto un bel viaggetto, devo dire, ha preso l'utile e dilettevole della cosa. Intanto andiamo avanti con il nostro appuntamento, naturalmente musica, facciamo un salto indietro e ci lasciamo coccolare, trascinare da queste onde musicali bellissime, che sono quelle di Michael Bublé. Home, naturalmente riconosciuta da voi a primo ascolto, scommetto, eh? Ascoltiamola. Another summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one in line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. Just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. Like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away. The Paris room, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go. I'm done, I gotta go home. Let me go home. I'll be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Fino all'ultimo solco di musica, questo singolo Home di Michael Bublé, 37enne, faccia d'angelo, e lui insieme alla mogliettina argentina Luisana Lopilato, di 25 anni, si stanno godendo qualche giorno di relax a Miami, da dove hanno annunciato anche che sono felicissimi ed emozionati, perché sono andati dal dottore e l'ecografia era piuttosto chiara ed è un maschietto. Praticamente Michael Bublé sarà papà ed è felicissimo per questa cosa. E il cantante su una rivista ha aggiunto qualche dichiarazione sul discorso, e lei ha detto: è un segno, ma non c'è possibilità che chiami mio figlio Frank, anche se per il fatto che ha funzionato abbastanza bene per il grande Frank Sinatra. Insomma, c'è una discussione, una diatriba fra i due su quale potesse essere il nome per questo nascituro. E Bublé ha scoperto che sarebbe diventato papà proprio nei giorni in cui stava discutendo la possibilità di un duetto con l'attrice Reese Witherspoon, e durante una telefonata di lavoro le ha rivelato la novità. Avevo appena scoperto che aspettavamo un bambino, è stato il miglior giorno della mia vita, ha detto Michael Bublé, e quindi più felice di così si muore. Del resto poi lui fa successo con la sua musica, adesso c'è anche il fatto che arriva questo bambino, un uomo completo e quindi non può che essere soddisfatto. Come completo è anche un altro artista, però questa volta tutto italiano, stiamo parlando di Zucchero, Sugar Fornaciari, che sentiamo con Love Is All Around. Ho visto un sogno, l'ho visto e c'è, oltre le stelle, acceso in me. L'ho visto in terra, l'ho visto in te, l'ho visto dove, visto dove. Love is, love is all around. L'ho visto altrove, l'ho visto qua, nel sole giallo, io l'ho visto già. L'ho visto al buio, con gli occhi tuoi, quando i miei occhi erano stanchi ormai. Love is, love is, it's all around. Love is, love, it's all around. Stiamo ballando tra le rovine, sulle macerie, cercando amore fino alla fine, tra le nostre miserie. Love is all around. L'ho visto nero, l'ho visto in blu, credevo allora che fossi tu. Ho visto un sogno, sembrava vero, ci credo ancora e ancora spero. Love is, love is all around. It's all around. Stiamo ballando tra le rovine, sulle macerie, cercando amore. Love is all around. Love is all around. Déjà Vu su CRM Happy Radio. Pausini, e per lei è tempo di cambiare musica. C'è un grande evento live creato per supportare Crime for Change, la campagna globale voluta da Gucci per le donne di tutto il mondo. Saranno tantissimi gli artisti ad esibirsi a Londra sabato 1 giugno, a partire proprio da Laura Pausini. Ci sarà anche Beyoncé, ci saranno i Florence the Machine, John Legend, Timbaland, insomma tantissimi grandi artisti per questo evento Crime for Change, campagna globale voluta, come dicevamo, da Gucci, pensata dalle donne per le donne, e vuole davvero che la musica cambi, e per questo organizza un evento musicale live che sarà trasmesso in tutto il mondo. The Sound of Change Live si terrà a Londra il prossimo giugno, il prossimo 1° di giugno, e l'evento è stato presentato alla stampa qualche giorno fa, esattamente il 26 marzo, con una conferenza tenutasi al Soho Hotel. Qui hanno preso parte molti dei nomi celebri che si sono fatti coinvolgere con slancio dall'iniziativa, e quindi ci sarà anche Beyoncé, che si esibirà sul palco insieme ad altri artisti ospiti, tra cui spicca un grande nome della musica italiana, come dicevamo prima, proprio quello di Laura Pausini. La cantante, da sempre attenta alle tematiche sociali, soprattutto femminili, è stata tra i primi artisti contattati e ha aderito con entusiasmo all'iniziativa e ha detto: sono una donna e da sempre credo nella forza delle donne e nelle nostre infinite possibilità. Far parte di un progetto come Crime for Change per me è un onore e un'occasione per far sentire la mia voce insieme a quella di grandi artisti internazionali. Laura Pausini, da poco diventata mamma, si sente particolarmente toccata dallo spirito che muove le anime di Crime for Change, tanto da dichiarare di sentire la responsabilità di fare qualcosa di concreto per le generazioni future, e quindi la vedremo all'attivo appunto con questo grande evento Crime for Change in tutto il mondo, praticamente, Laura Pausini. Ma d'altronde lei comunque è già un artista internazionale, un artista a tutto tondo, e per cui resta solo che partecipi appunto per la positività della cosa. Nelly col nuovo singolo che si chiama Hey Porsche. Ancora ben trovati, siete sempre all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano, con voi sino a mezzogiorno anche per questo giovedì del 28 di marzo. E ancora ben trovati a tutti quelli che si sono sintonizzati da poco. Come and let me slide under, so I can work on you. I wanna take your top off, celebrate the champagne pop off, yeah. And we can turn the clocks off, no rush, baby, we can just park somewhere. I don't need nobody's permission, yeah. No keys, we push start to ignition. Say, hit a Porsche, I wanna try ya. Crazy baby girl, there ain't nothing like ya. So right, I had to get ya. Whoop, bag it up, let's roll. Deja Vu su CRM Happy Radio. Se non ti vuoi fidare, almeno ascoltami. Di rimanermi ostile non serve a te. Non voglio interrogarti, rinfacciarti quel che fai. Io io piuttosto sto cercando chi eravamo noi. Almeno stavolta, almeno ascolta. Siamo stanchi, sarà il carattere, la lista dei difetti l'hai fatta tu, io mai. Ora smetti di pensare a un problema che non c'è e dammi il tempo di inchiodare tutti i tuoi perché. Almeno stavolta, almeno ascolta. Almeno stavolta, col coraggio di guardarci in faccia, ridammi l'effetto di un battito nel petto. Sono qui questa notte, dietro un sì che non. Almeno stavolta, un singolo di qualche tempo fa di Neck qui a CRM all'interno di Deja Vu. Ancora buongiorno e bentrovati a tutti quelli che si sono sintonizzati da qualche minuto anche tramite internet, quindi tramite il nostro indirizzo www.crmpiradio.it dove ci seguite in streaming. E non dimenticate che potete seguirci e interagire con noi anche tramite Facebook alla nostra pagina, ma se non siete fan CRM Radio, cliccate mi piace e lo sarete subito. E a proposito di Facebook, dimmi cosa ti piace su Facebook e ti dirò chi sei, come voti, se fumi e se i tuoi sono divorziati. Proprio così, i mi piace di Facebook rivelano i nostri segreti. Bastano una decina di like per capire chi votiamo, se siamo etero o gay e persino se facciamo uso di droghe. E già, ogni volta che apprezziamo una pagina su Facebook svegliamo qualcosa di noi. Questo meccanismo più o meno ci è sempre stato abbastanza chiaro, no? Meno evidenti sono le conclusioni che si possono trarre. Sommando un po' di questi like si possono scoprire tratti precisi della nostra personalità, persino fare previsioni su come ci comporteremo in futuro. Lo dice uno studio dell'Università di Cambridge in collaborazione con la Microsoft Research, basato su profili di 58.000 utenti americani di Facebook a cui sono stati somministrati anche test e questionari. Pensate un po', prima scoperta, i mi piace non sono meno attendibili di un test della personalità. Studiandoli, i ricercatori sono riusciti a individuare le preferenze politiche degli intervistati nell'85% dei casi. Nel 95% dei casi hanno capito se si trovavano di fronte a un bianco o un afroamericano senza guardare la foto. E 88 volte su 100 i like gli hanno detto se l'utente di Facebook era gay o etero e non solo. Osservando le pagine che piacevano ai 58.000 intervistati, i ricercatori hanno individuato l'esistenza di gruppi di like predittivi, in grado cioè di essere associati a comportamenti apparentemente distanti. E se un solo mi piace di per sé non dice nulla, o quasi, 10 possono invece raccontare la nostra storia. Quindi facciamo attenzione, se non vogliamo svelarci troppo, cerchiamo di non cliccare troppi mi piace. Ok, una serie di mi piace a pagine Facebook di natura religiosa la Bibbia, Gesù, sono orgoglioso di essere Cristo, eccetera, eccetera, cristiano, eccetera, eccetera, indicherebbero una persona soddisfatta della sua vita, pensate, mentre la passione tra gli altri per la band, heavy metal e altre cose del genere, oppure, che ne so, qualche personaggio cartoon politicamente scorretto, insomma, sarebbero indice di insoddisfazione. Quindi c'è veramente da studiarci sopra questa cosa. Se vogliamo capire di più su certi individui, insomma, basta vedere un po' quanti mi piace e quali mi piace, soprattutto va a cercarsi. Ok, noi facciamo invece una brevissima pausa, ma proprio breve, e poi ritorniamo e ci godiamo questi altri 25 minuti insieme. Sempre Deja Vu, sempre CRM Happy Radio, sempre Mary Catalano con voi. Deja Vu su CRM Happy Radio. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. see. Vi ricordate? You belong to me. È un grande successo questo, dei Police. Every Breath You Take era il singolo appunto dei Police, rifatto in questa versione da Puff Daddy e Faith Hill. E in questo caso l'hanno chiamato I've Been Missing You, un miscuglio di suoni e melodie di generi diversi, e viene fuori una canzone spettacolare che ogni tanto ci piace ricordare. I've Been Missing You, qui su CRM Radio, insieme a Mary Catalano, con voi sino a mezzogiorno. Abbiamo ancora circa 20 minuti, che bello. E salutiamo tutti quanti, anche quelli che ci ascoltano in questo momento mentre guidano, mentre sono in giro, che ne so, in un'autostrada deserta oppure in mezzo al traffico. E qui ti volevo, perché proprio in questo caso, quando si è in mezzo al traffico, è proprio lì che diventiamo un po' violenti, e sembra proprio che l'automobile ci porti all'arrabbiatura facile. In base ad una ricerca dell'Università di Leeds in Inghilterra, circa il 25% degli automobilisti mette in atto abitualmente comportamenti aggressivi. Che succede? Suona il clacson, lampeggia, gesticola, urla, si avvicina pericolosamente all'altra auto. Vi riconoscete in questo? Io credo proprio di sì, almeno in uno di questo, beh, anch'io. Questi comportamenti dipendono da diversi fattori. Innanzitutto, nel traffico scatta una sorta di competizione fra guidatori. Uno studio dell'Università di Stoccolma rivela che il 90% dei patentati si giudica più abile della media. Inoltre, per un altro psicologo del Trinity College di Dublino, esattamente Raymond Fuller, fra automobilisti raramente si ha un rapporto faccia a faccia, e senza le informazioni che derivano dal contatto diretto con l'altro, tipo espressione del viso eccetera eccetera, l'empatia, che tenderebbe a calmare gli animi, risulta ridotta, e in questo caso ecco l'aggressività che scatta. Guerrieri del traffico, anche chi è pacato può diventare aggressivo alla guida, ma si arrabbia più spesso chi è più impulsivo, naturalmente. Lo ha dimostrato uno studio dello psicologo Jerry Deffenberg dell'Università Statale di Colorado, e si è anche visto che chi si arrabbia molto al volante tende ad avere pensieri vendicativi, tipo adesso ti supero, e ha spesso una guida molto pericolosa. Quindi cercate di mantenere comunque una certa calma in qualche maniera. Intanto noi andiamo avanti col nostro appuntamento ancora, sì. Che pensavi lo stress mi avesse ucciso, ora senti questo inciso, l'ho scritto anche per te. Tu che pensavi lo stress mi avesse ucciso, ora senti questo inciso che ho scritto. Non vedi quanta gente c'è, quanta gente, gente, lo stadio è pieno, pieno. Non vedi quanta gente c'è, quanta gente c'è, quanta gente c'è. Come me, come me, come me. Tu mi credevi un coglione che perdeva tempo col rap, col rap, col rap, col rap, col rap, col rap, col rap, la base col rap, la base col rap, la base corre, la base corre, la base col rap, la base col rap, la base corre, la base col rap. Ring ring, come a lotta libera nel ring ring, oggi ho casa libera. Ring ring, come a lotta libera nel ring ring, dai la scossa libera. Rimo da me, mod MC da Merino, voglio solo dame in camerino. Mi domandano come rimi, roba rock and roll camerini. Sono hip hop robot col botto, ho lo sprint al top complotto. Sono sul dubsync con pot, tipo cabrio ti scappotto. Come un plotter, stampo tu salti in aria come il pirata con la botte. Non è lotta libera, non guadagni soldi se ti arrivano le botte. Di che scrivi, mando giù sempre più concetti tipo digestivi. Come quando allunghi le mani, con i soldi tu non ci arrivi. Tu che pensavi lo stress mi avesse ucciso, ora senti questo inciso, l'ho scritto anche per te. Tu che pensavi lo stress mi avesse ucciso, ora senti questo inciso che ho scritto. Non vedi quanta gente c'è, quanta gente, gente, lo stadio è pieno, pieno. Non vedi quanta gente c'è, quanta gente c'è, quanta gente c'è. Come te, come te, come te. Che ti credevi un coglione che perdeva tempo col rock, col rock, col rock, col rock, col rock, col rock, col rock, la base col rock, la base col rock, sulla base col rock, sulla base col rock, la base col rock, la base col rock, sulla base col rock, la base col rock. Ring ring, come a lotta libera.

ed è con Lenny Kravitz che oggi chiudiamo l'appuntamento con Déjà Vu, ultimo appuntamento della settimana, e naturalmente noi ci risentiamo dopo Pasqua, sì, e quindi vi auguro una buona festività pasquale, naturalmente. Vi lascio con l'appuntamento insieme a Filippo Glorioso che sta per iniziare, ovvero Carta e Penna, con voi qui su CRM. E quindi martedì dalle 10 sino a mezzogiorno con Déjà Vu, non mancate, vi raccomando, alla prossima, ciao!